Innamorarsi è la cosa più bella che possa capitare a un uomo. Innamorarsi è la più grande tragedia che possa capitare a un uomo. Quale di queste due frasi è meno vera? Comunque sia, io ci sono dentro. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:07 minuti, questa è Radio 24, sono Matteo Caccia e sono qui. Passare un fine settimana a pensare non è per niente facile. Anche perché pensare è l'attività più volubile che io conosca. Cioè, nell'arco di 5 minuti si può immaginare di volere cambiare lavoro oppure di migliorare nel proprio, di volere cambiare fidanzata o di sposarsi, la propria, di volere cambiare il mondo oppure di rassegnarsi a questo qui. Quando poi l'argomento in discussione è il destino sentimentale, il pensiero diventa come una specie di uragano che più spazio ha per correre e più si ingrandisce. Quindi ieri pomeriggio, mentre iniziava a diventare buio e la città era come ipnotizzata dalla pioggia, le possibilità che avevo pensato riguardo a Nathalie erano ormai tali e tante che ci avrei potuto costruire un romanzo di realismo magico tipo Marquez, per cui i personaggi sono infiniti e ogni 5 pagine devi tornare indietro per essere sicuro di non aver perso qualcosa. Alla fine sono arrivato a fare un elenco di tutti i suoi difetti, con la speranza ovviamente di farmela passare per un po'. Sapete, no, quando ci si mette d'impegno e si cercano tutti i difetti della persona che abbiamo di fianco? Così, nella speranza che un po' quella febbre li svanisca. E io l'ho fatta la mia lista, eh? Tipo, è enigmatica, è impaziente, spesso si chiude senza motivo, è incosciente, è inconsapevole, è ingenua, è troppo allegra o troppo triste, è ambiziosa, è individualista. Ho fatto una lista molto lunga. Ma niente, non ha funzionato. Mi sono convinto che il mio destino sentimentale ormai non dipenda più da me. Poi oggi è arrivato un briciolo di speranza. Oggi ho letto una frase che non c'entrava nulla con i difetti della propria compagna o pseudotale, ma con l'idea che abbiamo di come riusciamo a gestire il mondo intorno a noi. E fa così. Quando riflettiamo sugli eventi attuali della nostra vita, noi oscilliamo senza posa tra la fede nel caso e l'evidenza del determinismo. Quando invece si tratta del passato, non abbiamo più alcun dubbio. Abbiamo la certezza che tutto si sia svolto come, in effetti, doveva svolgersi. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, sono le 16:10, nel frattempo fuori continua... No, ha smesso di piovere, non piove più, però più o meno la situazione è quella che vi ho appena descritto ieri. Cioè, è stato un fine settimana molto difficile che adesso vi racconterò, che ho passato tristemente a casa a pensare tutto il fine settimana. Non so voi cosa abbiate fatto, però mi piacerebbe che voi faceste questa cosa adesso. Solo se siete fidanzati, solo se siete sposati. Non valgono i single, anche perché sarebbe difficile. No, potrebbero valere i single che cercano di farsela passare. Questa non è male, eh? Però soprattutto uomini e donne sposate oppure fidanzate. Sapete che si dice, ah, guarda, io lo amo anche per i suoi difetti. Ecco, non è vero niente, non è così. È che quelli si accettano, ok? Però se siete lì e avete 30 secondi di tempo, provate a pensare al vostro compagno o alla vostra compagna e mi raccontate tutti i suoi difetti e alla fine di tutti i suoi difetti, nonostante questo, lo amo lo stesso. 800240024 349-238-6666. Guardate, fate come Marcello. Marcello mi scrive, quando le parlo, perché è una compagna, quando le parlo è perennemente assente, non si è mai interessata alle mie cose, lavoro, palestra e hobby, meglio così però perché non invade il mio spazio, abbiamo i conti separati e non si è mai interessata a quanto o come lo gestisco. Io dico che è un grande difetto, vive sulle nuvole e forse la nostra storia dura per questo. Luisa, lui ha le mani bucate e devo controllarlo da lontano per evitare che non riesca a pagare il mutuo. Quando si infervora a parlare di politica o di religione non fa parlare gli altri e mentre lui fa il suo monologo continua a ripetere: Fatemi finire di parlare, il tutto mentre gli altri tacciono. Stefano, è testarda, è cocciuta, si perde in problemi piccoli come sabbia quando nella vita affronta scogli immensi arrampicandoli con mani e piedi nudi. 800240024 349-238-6666. Piccoli e grandi difetti del vostro compagno, della vostra compagna, nonostante i quali continuate a stare lì. Benedetto, non riesce mai a dire scusa e prova a fartelo capire in modo un po' goffo. Tra l'altro, visto che voi siete sempre più bravi di me, datemi una mano. Io ho visto un film tempo fa, ci abbiamo pensato col Bonini, ma non l'abbiamo trovato. Anche la Mussini, e quando la Mussini si mette a cercare una roba, ragazzi, è difficile che non la trovi. Ma non ce l'abbiamo fatta a trovarla. io ho visto un cortometraggio tempo fa, saranno stati 2 o 3 anni fa, una notte su Sky. Mi ricordo solo che era un cortometraggio e che i protagonisti erano un uomo e una donna. La storia in breve era questa qua. Due 35-40enni al primo incontro, lei e lui, conosciuti credo attraverso amici, sono a cena al ristorante e cominciano le solite manfrine della prima cena insieme. Cominciano a chiacchierare e a raccontarsi cose ciascuno su quello che si fa, quello che non si fa, quello che gli piace, quello che piace a uno, quello che non piace all'altro. E poi a un certo punto decidono di rompere questi schemi e dicono: sai cosa? Non so chi comincia dei due, lei mi pare. Sai cosa? Io adesso ti racconto esattamente come sono, ti racconto tutti i miei difetti. Alla fine di questo racconto, se sei ancora qua, vuol dire che possiamo provarci. Lei gli fa un elenco lunghissimo, lui l'ascolta tutto e poi parte con il suo di elenco lunghissimo. Alla fine del film, il film si mescola, per cui loro cominciano a mangiare e quando finiscono di mangiare, loro due sono molto più anziani, hanno tipo 20 anni di più rispetto alla prima cena e si stanno ancora elencando i difetti, che adesso conoscono bene, ma nonostante i quali sono ancora insieme. Se avete visto questo film e se sapete dirmi come si chiama, 800240024 oppure 349-238-6666. Se invece avete un compagno o una compagna di cui oggi in particolar modo avete voglia di elencare i difetti, il numero è lo stesso. 800240024 349-238-6666. Perché a me il fine settimana è andato così. Sì, innamorarsi è la cosa più bella che possa capitare a un uomo, ma innamorarsi è la più grande tragedia che possa capitare a un uomo. Quale di queste due frasi è meno vera? Non lo so. Comunque sia, io ci sono dentro. Lo so, lo sento, sono fottuto. Sento che non posso fare a meno di pensare a lei. E mi rendo conto che, pur non essendo Megan Fox, lei è la donna più bella che io possa immaginare. Anzi, no. Lei è l'unica donna a cui io possa pensare. È evidente che si tratti di una malattia. E solo la mia straordinaria capacità di guardarmi da fuori mi aiuta a non perdere completamente il senno. Sì, perché io ho questa virtù, che sono capace di osservarmi. È una tecnica che ho affinato durante il periodo in cui facevo l'attore, in particolar modo quello in cui studiavo da attore. Era proprio parte del percorso di studi delle tecniche di recitazione, cioè sapersi individuare nello spazio, ma allo stesso tempo e allo stesso modo è sempre stato un vizio che mi ha consentito di rimettere al loro posto tutti gli accadimenti della mia vita. Guardarsi da un punto di vista esterno consente di sdrammatizzare, sorridere di sé, anche quando pare impossibile. È una specie di antidoto contro la permalosità, anche una grande medicina contro il prendersi troppo sul serio. Ma contro l'amore, però, o contro l'innamoramento, adesso non saprei dire perché dopo quel libro di Alberoni ho le idee piuttosto confuse. Insomma, contro l'amore non esistono antidoti. È un pochettino come sentire la febbre che sale. Capisci che ti causerà un grande mal di testa e magari anche il delirio, però sei sempre cosciente che si tratta di un'alterazione dello stato naturale. Io poi ho sempre guardato moltissimi documentari sugli animali, c'ho una passione per quella roba lì, e lo so che noi siamo delle bestie, con il dono della parola e un incredibile senso di superiorità, e quindi lo so bene che l'amore lo provano anche gli animali. Solo che noi lo chiamiamo istinto primario e lo minimizziamo, no? Lo facciamo diventare un semplice motore per la riproduzione, per la salvezza della specie. E se invece fosse lo stesso anche per noi? Cioè, se, e l'ipotesi poi non è così banale, no? Ma se l'amore fosse solo una versione extra lusso della necessità del maschio di dare vita al proprio patrimonio genetico? Secondo me è così. Anzi no, ne sono certo che sia così. Cioè, io non sono un romantico, però per quanti ragionamenti faccia, anche solo pensare che Natalie non abbia voglia di vedermi mi fa piangere. Ma non dico così per dire, eh? No, io in questi giorni piango proprio con le lacrime, con i singhiozzi, per niente. Mi basta ipotizzare che lei non stia pensando a me o che abbia avuto degli uomini prima di conoscermi. Ecco, l'amore è un inferno di lacrime e sudore freddo. Solo che invece di sentirti un dio, ti senti un idiota. Tutto quello che si fa in questi casi, anche se so che non dovrei. Ad esempio, guardo il telefono cercando di convincerlo a suonare. Compro dei fiori e penso a quando lasciarglieli in portineria. Scrivo lettere d'amore, poi le straccio e le riscrivo. Controllo gli oroscopi per misurare la compatibilità tra i nostri segni zodiacali. Piango quando guardo un film in TV in cui lui guarda lei. Non so se avete capito. Cioè, mi basta che lui la guardi, chiaro? Faccio cose tipo chiedere alle mie amiche quali sono i comportamenti da non tenere con una donna di cui sei innamorato. Esco per avere una spalla su cui piangere. Penso al volto angelico dei bambini che potremmo avere. Scrivo poesie. E poi sto tanto tempo sul divano a pensare a come si veste oppure al colore dei suoi capelli. Ho cercato il suo nome su Google, cercando informazioni per sapere fondamentalmente se è fidanzata oppure no. E se sì, per sapere quanto e con chi è fidanzata. La cerco su Facebook. Una volta trovati dei nomi compatibili mi chiedo: ma se le chiedo l'amicizia, poi diventiamo amici? Ma io non voglio esserle amico. Solo che se non gliela chiedo, lei probabilmente non capirà mai che l'amo. Non sentirà l'oceano delle mie emozioni. Non parteciperà della mia malattia. Sono malato di lei e sento che potrei essere contagioso. Magari standomi vicino si innamorerà di me. Se le scrivo un SMS, sorriderà? Come faccio a saperlo? Eppure non posso non scriverle. Cammino per la strada e la vedo nei volti delle donne che incrocio. Donne che a un secondo sguardo sono more quando lei è bionda, sono grasse quando lei è magra, orribili mentre lei è un angelo. Secondo me ho le allucinazioni. Ma non sto scherzando, eh? Cioè un weekend così è peggio della malaria. Eppure ho capito anche che tutto questo fa parte del senso della vita. Che forse sarà anche solo riprodursi, aiutare la continuazione della specie, provvedere alla distribuzione del mio corredo genetico, ma mi trascende, mi avvicina quasi al mistero della vita. È come se lei fosse la spiegazione irrazionale alla domanda se Dio esiste. E allora le scrivo, perché di fronte a tutta questa potenza di emozioni, nulla potrà andare male. E scriverle un SMS con sopra scritto «Come va?» per me diventa come urlare al mondo che sì, Dio esiste ed è infinitamente buono e la vita è bella, ma lo è per davvero. E lo faccio con il sorriso sulle labbra. Me lo sento addosso. E poi, esausto, mi butto sul divano e guardo il cielo dalla finestra, con il telefono in mano, osservando un gruppo di storni che si organizzano per la migrazione. Il volo degli uccelli, eh? Che meraviglia. Stupefacente. Solo a guardarli mi commuovo. Il telefono vibra all'improvviso e lo sapevo che mi avrebbe risposto subito. È l'amore, no? Due persone diventano una cosa sola. E lo leggo sempre con lo stesso sorriso di prima. Ciao Matteo, sto uscendo a cena con il mio fidanzato. E il sorriso mi rimane, ma sento che mi si ingrossano gli occhi e guardo il volo degli uccelli e vorrei avere una carabina. È un cane da caccia. E poi inizia la nausea, il sudore freddo e le lacrime. E vorrei che esistesse una medicina, ma per questa malattia la medicina non c'è. Non ci siamo capiti, è proprio per evitare che i denti ci si carino con carino, no? Diventino cariati con tutta questa melassa, che oggi vorrei sentire solo i difetti del proprio compagno e non perché abbiamo voglia di innamorarci di lui anche nonostante i difetti. 80024 0024 349 238 6666. Chiara è disordinato, disorganizzato, ipocondriaco e spesso troppo concentrato sui suoi problemi. Gelosa, possessiva, paranoica, non ha il concetto di privacy, scarso senso dell'umorismo, praticamente mi frena in tutto e per tutto. Beh, è un disastro, scusami. Ah, infatti, ormai ne ho le palle piene, Giordano. Il difetto più grande di Marta è suo marito Mario, io, e qui è subito in grande indulgenza nei confronti della moglie. 80024 0024 349 238 6666. Questo non è male. Anche io elenco i miei difetti, ma loro all'inizio non mi credono. Poi, quando ritorno un po' di lucidità, me li rinfacciano e si arrabbiano come se li avessi raggirati. Ecco, questo appunto. Era il abbiamo saputo come si chiama il titolo del film, giusto? Il titolo del film è Tutti i miei difetti, amore. Ringraziamo Stefano da Verona. Se vi capita andate a vederlo, però mi hanno detto che non c'è nulla su YouTube. 80024 0024 349 238 6666. Solo i difetti, i più terribili del vostro compagno o della vostra compagna. Altrimenti davvero qui si affonda nella melassa. Per evitare di affondare di affondare nella melassa, Rudy, per piacere, mi dai una base proprio da melassa? Bravo Rudy, sei magnifico. Nonostante tutto, sei magnifico. Questo è un pezzo di un libro che ho trovato e mi aveva regalato un'amica, che si chiama Esercizi d'amore, ed è esattamente il contrario di quello che immaginate. Inizia così: In nessun ambito della nostra vita il desiderio di un certo destino è più forte che nella sfera romantica. Costretti anche troppo spesso a dividere il letto con chi non riesce a penetrare la nostra anima, non meritiamo indulgenza se ci illudiamo, in barba a tutti i dettami della nostra epoca illuminata, se ci illudiamo che sarà il destino a farci incontrare un giorno l'uomo o la donna dei nostri sogni? Non ci si può perdonare una fiducia, forse superstiziosa, in una creatura che verrà e porrà fine ai nostri implacabili struggimenti. E benché sia possibile che le nostre preghiere non trovino mai risposta e che sia senza fine il malinconico ciclo della reciproca incomprensione, se invece il cielo dovesse avere pietà di noi, come potremmo attribuire l'incontro con il nostro principe o principessa a una semplice coincidenza? Non ci è permesso per una volta eludere la censura razionale e attribuire l'evento a nient'altro che a un inevitabile ruolo del nostro destino romantico. 80024 0024 349 238 6666. Solo ed esclusivamente i più grandi difetti del vostro compagno o della vostra compagna. Dopo la borsa, io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Nella foto siamo in montagna. Questo direi che è chiarissimo. Quello che è meno chiaro è quello che si vede da questa foto, perché la foto è completamente coperta di neve. È come se l'obiettivo fosse completamente coperto dalla neve e fosse rimasto solo un buco minuscolo da cui si vede una montagna, la punta di una montagna nera e coperta di bianco. Il cielo è altresì bianco e tutto il resto invece è grigio, di quel grigio coperto appunto della neve che copre un vetro. Abbiamo però dei dettagli in più, perché evidentemente non è solo una foto scattata da una macchina fotografica normale, ma da una webcam, direi. Per cui in basso a destra abbiamo scritto Regione Piemonte, in alto a destra c'è la data 26, è scritta in americano mi sa, 26 ottobre 2010, l'ora sono le 16:50. E c'è anche il sito, per cui sappiamo da dove prendo questo sito, che è questa foto presa dal sito www.rifugiosella.it. Stefano Mastripolito, 40 anni, rifugio Quintino Sella, cresta est del Monviso, ecco, io sono qui. Devo fare ammenda, perché effettivamente è da qualche tempo che un pochettino non carico le foto all'interno degli album sul profilo Facebook, e gli album sono E voi dove siete, sono quelle delle vostre foto. Mi riprometto di farlo da oggi. Proprio da oggi? Sì, da sì, Bonini, hai ragione. Dopo la riunione, da questa sera. Da questa sera io prendo le foto che mi avete mandato e le carico all'interno dei due album. Se non l'avete ancora fatto, mi potete mandare le foto, caricarmele sul profilo Facebook se siete amici, ma anche se non siete amici, credo possiate farlo uguale. Il profilo Facebook è Matteo Caccia, io sono qui. Ma potete anche mandarmele via email, perché abbiamo un indirizzo email, qualcuno ogni tanto ce lo chiede, che è molto semplice: io sono qui, @radio24.it. Tutto attaccato, io sono qui, @radio24.it. Ripeto, la foto è la foto del posto in cui siete, in cui vorreste essere o in cui andrete a breve. Per esempio, non credo che Stefano fosse esattamente qui, credo solo sia andato a prenderlo su un sito e avesse la voglia di andare in montagna in mezzo alla neve. 80024 0024 349 238 6666, però, perché stiamo parlando dei grandi difetti dei vostri compagni e vostre compagne, così, giusto per allietarvi un pochettino il lunedì. Mia moglie si arrabbia per delle cazzate, sembra quasi la cerchi con le lente, ma ciò nonostante, puntini puntini. Io amo mia moglie, ma le ho dato la metà dei miei difetti. Il guaio però è lei che mi ha dato tutti i suoi, Francesco. Il difetto più grande di Marta è suo marito, cioè io. Mio marito pensa sempre a gonfiarsi in palestra ed ogni cosa che succede per lui non ha importanza. Permaloso, puntiglioso, perfettino, paranoico, ma del resto, puntini puntini, nonostante tutto. Mia moglie, egoista, soffre di bulimia emotiva e solo raramente è del tutto pulita. In che senso, Roberto, scusami? Cioè che non si fa la doccia? Roberto, potresti per 349-238-6666 potresti dirmi cosa intendi per "e solo raramente è del tutto pulita"? Non litighiamo mai, ma non vuol dire che va tutto bene, perché lui si tiene tutto dentro. Ci sono due difetti negli uomini. Uno è che lui si tiene tutto dentro. L'altro è che, come ci scrive un'ascoltatrice che non si firma, ama troppo il calcio, di tutto il mondo, di ogni serie e categoria. Certe volte fa l'ottuso apposta per irritarmi. È troppo dipendente da me, anche nelle piccole cose, si sveglia sempre comunque presto, anche la domenica. Ma nonostante tutto, 800240024 349 238 6666. Andiamo subito da Enzo da Napoli. Pronto, Enzo? Ciao Matteo. Ciao. Salve, tutto bene? Bene, tu come stai? No, sì, dai, benone. Fermato in autostrada, che è un bel momento. Gli altri corrono sotto l'acqua, io sono fermo, tranquillo a parlare con te, va benissimo. Bravi, perfetto, fa tutto Enzo. Enzo parte e va dritto. Dimmi subito quali sono i difetti tua compagna o tua moglie? E mia moglie, li ho annotati perché mi hai dato una grande idea quando hai detto che hai pensato per una settimana a fare l'elenco, e grosso modo quello che ho fatto anche io questo weekend, sì, perché cercavo un motivo di rissa perché era troppo melassa. Ho detto questo weekend faccio la guerra e ho tirato giù la lista, ma ho trovato solo 4 punti, non sono stato particolarmente... Vai Enzo, vai con la lista però. Allora, sicuramente c'è una ricerca spasmodica della pace con l'universo. Io sono abbastanza guerrafondaio, vorrei attaccare briga con mezzo mondo. Lei riesce a trovare aspetti positivi pure in Satana, e questo è... Poi Enzo, dimmene un altro. Sì, sicuramente la scarsa capacità di autovalutarsi. Ok. Parla un paio di lingue, fa di tutto di più e valuta a mezze calzette molto meglio di se stesso. Dimmi gli ultimi due, Enzo, che poi sento un'altra telefonata. Grande astrazione assoluta verso molte cose. E soprattutto il discorso di non riuscire mai a liberarsi di rompiscatole, non glielo perdonerò mai. Enzo, che lavoro fa tua moglie, scusami? Mia moglie fa la giornalista. E tu cosa fai? Io faccio il responsabile di un'azienda di ricambi auto. Benissimo, Enzo, grazie mille, buona giornata. In bocca al lupo anche, direi. Ciao, grazie. Prima mi è arrivato questo messaggio. Ciao, io sono single e ho passato il pomeriggio... Scusa, non guarda, giuro, non rido di te, Alex. Adesso ne parliamo anche. Io sono single, ho passato il pomeriggio a guardare il soffitto bianco della mia stanza per capire perché la ragazza che mi piace abbia scelto un mio amico al posto mio. E vabbè, e fino a qua uno dice: sai qual è il problema? È che è già la seconda volta che una ragazza che mi piace decide di andare con questo mio amico. Lo stesso, lui è la mia bestia nera. Ciao Alex. Pronto Alex? Sì, ciao, sono qua. Ma benissimo, io sono qui, quindi siamo in due. Ma, prima addirittura, mentre lo leggevo, giustamente anche Rudy al mixer mi diceva: cambia amico. Sì, ma ce l'ho sempre il tuono, vorrei anche, ma dovrei cambiare compagnia, quindi non posso. Ma da quanti anni hai tu, Alex? Come? Quanti anni hai? 33. E lui? E lui 34. E lei? E lei 29. Ma scusami, lui ci si fidanza con queste qui o semplicemente... No, ci si fidanza. Solo che sempre lui, è una cosa tremenda, veramente, cioè, non... Ma scusami, ma gliel'hai fatto capire che a te lei piaceva? Sì, l'ho fatto capire a lei, anche se davanti una scelta, o meglio lui, perché comunque lei eravamo anche, insomma, eravamo amici anche prima, no? Con chi era? Scusami, con chi eravate amici? Con lei? Sì, con lei. Ah, ok, tu usi la... Sì, perché comunque è una ragazza, diciamo, che è nel mio giro, nella mia compagnia, eccetera. Sì. E quando gli ho messo davanti una scelta, ma lei molto serenamente mi ha detto preferisco lui, e quindi fatti una ragione. Questo è un errore gravissimo, Romeo, lui. Lei... E lui invece? Lui invece è sereno, va avanti per la sua strada, fa finta di niente, infatti è un... Senti, Alex, allora fai così, dimmi 3 difetti di lui e 3 difetti di lei. Ho 3 difetti di lui, che è un opportunista... Eh? Che è un po' falso. Sì. E un terzo difetto, che è un gran taccagno. Che è un gran? Taccagno, è grizzo. Taccagno. Scusami, hai detto? Come? Come l'hai definito, o taccagno? Taccagno. No, hai usato un altro termine. No, ti sono usato... Ah, grizzo. Griccio, che nella tua lingua di dove sei tu? Ah, io sono di Ferrara, nella mia lingua vuol dire che uno è un tirchio, uno beh, che no, non quello l'avevo mai capito. Spendere soldi. Senti, invece dimmene solo due di lei, dai, e poi ti saluto. Ora, di lei a sto punto che si è dimostrata falsa e che opportunista come lui, quindi ci sono trovati. Beh, benissimo, e così sei a posto. Alex, in bocca al lupo, cercare magari, cerca magari degli altri amici la prossima volta. Ciao Alex, sì, grazie. Ti proverò, ciao. Rudy, senti, mi daresti ancora la base di prima, quella che piaceva tanto? Perché c'è proprio un pezzo dedicato di questo libro che si chiama Esercizi d'amore di Alain de Botton, dedicato ai difetti fisici, però. Per cui quando descrive un difetto fisico dice che quel difetto fisico lì aumenta la bellezza di una donna se l'osservatore riesce a vederla come tale. Quando passa, la cosa diventa un problema. Il pericolo insito nella bellezza non canonica è che la sua precarietà rischia di enfatizzare il ruolo dell'osservatore. Perché quando l'immaginazione si stanca di quella fessura tra i denti, non resta che rivolgersi a un buon specialista in ortodonzia. Una volta che abbiamo collocato la bellezza nell'occhio dello spettatore, cosa succede se quell'occhio si rivolge altrove? Ma proprio questo limite era gran parte del fascino di Chloe, di quella ragazza. Il concetto soggettivo di bellezza fa dell'osservatore un essere meravigliosamente indispensabile. Ripeto, Esercizi d'amore di Alain de Botton. Ce l'ho qui e lo tengo presente perché sembrano delle pillole di saggezza a cui ogni tanto attingo. Ora, manca solo un minuto. Io ho chiesto prima, quando abbiamo deciso di parlare di questo argomento, dei difetti, delle compagne, dei mariti e delle mogli, mi è tornato in mente un ascoltatore che avevamo sentito tempo fa per un altro argomento, ma che tutti quanti ricordano molto bene, ed è Giacomo da Catania. Pronto, Giacomo? Sì, ciao Matteo. Come stai, Giacomo? Ma diciamo che ci difendiamo. Benissimo. Che non possiamo attaccare. Vabbè, Giacomo, senti, aspetta un attimo che ti introduco velocemente, che ho 50 secondi, per chi non se lo ricordasse. Sì, Giacomo è un ascoltatore che aveva chiamato per parlare dei suoi sogni in cui lui volava sopra la città di Catania, ma a un certo punto io gli chiesi, ma tua moglie le racconti queste cose? Lui mi disse, io a mia moglie non ci parlo. E io allora vorrei, dico l'essenziale, tu mi dicesti, Giacomo. Ora, io vorrei capire, dimmi quali sono tre difetti di tua moglie, Giacomo, così che cerchiamo di ricucire questo allora, rapporto. Allora, un primo difetto è che io parlo con una certa logica, perché come ho detto prima sono appartenente al segno della Vergine, ma non è qui per questo voglio essere presuntuoso. Certo. Perché in primo piano io metto la logica nella discussione. Benissimo. Cosa che mia moglie non la fa. Logica non sa nemmeno dove non fa. Io devo chiudere ormai, siamo già ritardissimo. Dimmene un altro, Giacomo, dimmene un altro. È un pochettino ticchia per i soldi, sai, quando io spendo su una certa cifra. Possiamo andare avanti fino alle 8 stasera. Solo con Giacomo. Perché sennò sono solo con lui. Giacomo, ci sentiamo prestissimo. Dimmi. Ci sentiamo prestissimo. Grazie mille. Va bene, ciao Matteo. Ciao Giacomo, buona serata. Ciao. Ha già messo giù. Devo chiudere, sono ritardissimo, sono ancora ipnotizzato da Giacomo, ma ringrazio lui, ringrazio Fabio Cantadori, Tiziano Bonini, Vittoria Mussini e Stefano D'Andrea. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?